perché di stomaco si tratta, mentre il cuore passa sopra un letto di acqua e sale. A Luca questo non basta.